segreto chiuso in sé, il sogno del mio cuore innamorato è sbocciato oggi accanto a te. Una piccola casetta è tu, sulla riva del Danubio blu, sotto il chiaro lunare, con i baci senza parlare, lieti al cuor la ninna nanna cantare. Nell'incanto d'ombre bianchide, innalzare i nostri sogni al cielo. Questo bravo e non più, una piccola casa in su, sulla riva del Danubio. Romantiche canzoni d'Ungheria, nostalgia che non muore, violini che sospirano l'amore, mentre il cuore vive un sogno d'oro. Una piccola casella è tu, sulla riva del Danubio blu, sotto il chiaro lunare, con i baci senza parlare, dietro al cuor la ninna nanna cantare. Nell'incanto d'ombre bianchive, innalzare i nostri sogni al cielo. Questo bramo e non più, una piccola casa è tu, sulla riva del Danubio.